Aspetta, li trovi in tutti i posti, anche da cosa li trovi? Da Decrato, da cosa, città mercato, e in tutti i posti li vendono. Sono i negozi anche, anche il negozio che c'è in Viale Porto Torre ce li vende. Ah, e quello di Abugino ce li ha, sì. Sì, Via Bugino sì che ce li ha, anche lui ce li ha. Chiedegli quelli in plastica però, chiedi. Ah, in plastica sono. Non si dà mai, sempre meglio avere disponibile anche la spara liquida, non si che eventualmente buchi, capito? Però voglio essere attrezzato, ecco, perché certo non si sa mai, a cammina appesa, poi è pesante. ti prendi il kit, ti prendi direttamente con la borsetta, attacchi a Darito e prendi per gonfiare, prendi direttamente lo spray per gonfiare. Ma lo spray rovina la camera d'aria, no? Oh, che c'è uno spray che gonfia solo e basta, e ad aria è così. Adesso vediamo un po' là. Vediamo un po', allora, con la borsetta me la prendo, la presa senz'altro, e c'è borsetta, certo, almeno lo metto nel bauletto, ed è un po' presso, la pompa, gli accelò, piccolina, così che mi manca solo il cacciapo, il copertore e la paraliquida, boom! Io ho preso tutto, ce l'ho tutto nella borsetta, è una borsetta blu che va sotto il sedile, e c'è tutto dentro, anche lo spray per gonfiare. Adesso ci faccio. Anzi, domani se mi ricordo ci faccio e me l'ho preso per avere sempre di pulire. Non c'è mai là, capi, la buchi e cosa gli va, cazzo, non gioco io. Ok, bene. Giovanni, già c'è tutto che si possa, almeno avere tutto quanto appresso. Certo, che se no, oia. No, magari la tua è più leggera, a me ha pesato di più perché magari la batteria, non mi ricordo quanto costa quella batteria. È lunga a me. Certo, ma che pesa questa batteria? Vabbè, poi c'è la forcella ammortizzata pure, però lei non pesa, ma la giù. Io non credo che pesa, voglio sempre averlo, non cosa, ma i danni, è buccato, e a Cunzalla, è tornato in appiedi, piano, invece che è pusato, te ne deve durare appeso, no, a Zaporeggi. Invece che da mani a Zaporeggi e te ne dovrà venire pusato. Quello che voglio, infatti, già, lo credo. Se no, ma che vado, me l'ha preso, lo credo. Ok, va bene, quello volevo sapere. Ok. Bene, chissà che entri qualcuno stasera. Stamattina acceso c'era verso mezzogiorno, c'era Franco da Sorso, dopo è entrato Claudio. Ma ho fatto una bella chiacchieratina là stamattina. Oh, io stavo facendo cosa qua, poi ho finito ed era l'una manco un quarto che andavo giù finito. Tra farai e tutto quanto si è fatto l'una che cosa. Prima ci avevano stato un medico a Margellano, poi ci è stato al posto, però ho salutato la mia figlia portare roba, ho preso magari fare, ma ci siamo tutti mangiando in giro, a mezzogiorno già erano in casa, poi ci sono dai 5 fino alla 1, vuoi immaginare? Va bene, già va bene così, certo, a voglia, tanto ho rimane sempre in casa, poi io vengo in casa, poi già gli varato rugani a giosso. Ci sono fatti una qualche cosa. Ogni tanto mi si fa al magazzino, non fa niente, si fa, ma ecco che ti ciappuglietti, tocchendi, ve ne appunto magari, la bocca poteva, la poi la gamba, la bocca, sono sempre vicini, tanto a ammazzare un tempo, capito? Mi svago quando scendo io, oppure magari mi faccio due passi dietro così, e ammazzo l'ora, capito? Faccio. è meglio sempre fare qualcosa. Farvi sicuro. Francesco Manzano. Due posti, che devo immaginare. Ehi, oggi ha giù camminato un poco, va. Ma così, vado di ginnastica che è un poco buro. E piano piano si va di tutto. Solo che c'è un po' tempo così non si può fare nulla. Oh, se no mi abbiamo fatto pure cacchi giri bicicletti, no, catareggio. A chi? E le strade non mi fida ancora. Anzi, sono capito a pratica, beh, la sbirata due posti su la pera. A pigliare un po' di pratica, capito? Che però quando fate da dire, tanto state con guida, questi levano, chi se le levano, non la tocco. Oh. Solo quando per tempo mezzo gli esco, tanto da bollire in pratica, allora comincio a schiaffura. E fai bene. E fai bene, così a Romanco si andrà a Tirirubi, in città e qualcosa, ha fatto canto, ohia. Yeah. E allora va a canto da Gio Vincello, che è questa, a va che toccava in bicicletta e poi immaginà. Catta, e pare così, ma era parecchio, insomma un sacco d'anni che io non prendevo più bicicletta, per cui non ho, magari è diversa la questione, capito? Bisogna fare un po' di pratica per far andare a dare dritta pure, capito? E già, infatti, no, fa così, io due domeniche fa ci sono comparato in bicicletta a Giosu, a Plattamona ci sono comparato. Ci sono comparato e alzato piano piano. Pensa un poco. Beh, io mi fa la pista ciclabile pure, ma non mi hai fatto la superstrada. Ma arrivi fino a un pezzo. Poi devi andare in carriera. Ah, così è. Sarà pesantino la strada di Santo Michele o no? Ah, no, farà affari, ma già da voi è un bel pesante, infatti non l'ha fatta questa carriera. Però la mia già pedaleggia, già leggeri più leggera camminando, dai, basta pedalare in estate già è più leggera. Ma devi sempre pedalare, devi. La pedalata è più leggera, ma è sempre pedalata. Ah, beh, senz'altro, io non credo. Ma sai rettilineo che tu cammina questa cosa? Un bel mini. Ti sei del baruccoso. Piglia la fiata se la si andà. Io devo pensare sempre pedaletti. Sì, quello sì. Perché sennò non cammina da sola. La devi aiutare a pedalare in bicicletta. Purtroppo, invece io farendo me l'ha già avuto tutto Rizzini, che ha tutto in farata. Un po' carino, ha già avuto qualche pezzo da strada, ma da poi ha tutto in farata. A farà il bello, ma da poi a Sandi. Ma la mia pure in farata gli ha camminato giù. Ah sì, questo sì. Non si carica già la batteria così. E chi dà ragione? Certo. Vabbè, certo, vedremo, va, vedremo, e vediamo un po', Marco per un po' d'allenamento e per cui si fa che, va. Infatti Giovanni, piano piano, è sempre andando che tu dici. Oh Giulia. Allora. Ero deciso a pigliarmi con lo scooter che c'è lì, però ho detto, ma lo scooter capita, se dovessi guacciarsi pesa più della bicicletta a trascinarlo, capito? Io sennò stavo a prendere lo scooter che c'è lì, bello quello scooter, 850 euro, è bellino però a voi mi sono capito, no, si ferma a voi e farà che cosa, hai finire poco pesante. Infatti, e poi con quello ginnastica non ne fai, invece con la bicicletta fai ginnastica, fai anche. Infatti così. No, ha fatto bene, ha preso la bicicletta, va benissimo. Da, va bene, è giusto che troppo gioca, è troppo gioca, certo. E poi è completa, c'ha tutto, c'ha anche lo stoppo, le frecce, c'ha. Sì, cazzo, sì, è completa di tutto, è completa di tutto. Non è come quelle che vendono qua in negozio e cose. Quella lì è completa. Infatti ho visto che, cazzo, però i nocchi se la fate in bagaccara, ma la giusta. Una normale, cazzo, la giusta. 1150 la volevo, quello di via Bugino. Cazzo, la bicicletta è normale. Boh, è elettrica, però, cazzo, con la batteria su di dietro, sul bagagliaio. Sì, già l'ho vista, sì. Già gliel'ho vista, l'ho chiesto anch'io. Ma già tutti i negozi, ma già di questa non bel costa di nuovo. Cazzo, bel caro visto, la piazza, i suoi teleportatori, è caro lo stesso, Poi si guarda pure a coso, quello che vicina a Europini, in Pedralieta. Ah, tu altro, come te la farmacia. Allora mi avete chiesto di via Napoli. Se via Napoli era la matessi cosa. Allora, cazzo. Ma la zucca, cazzo, ma niente. Così che, vabbè, è comodo magari perché l'ha preso qua e se dovessi esserci qualche cosa, magari è vicino e tutto altro discorso, per quello magari è conveniente. Per la garanzia e tutto quanto è conveniente, solo che se la fate in bagaglio, sì, magari costa 450 e la fate in bagaglio 800. Minimo, chiaro dire, per carità. Ma vabbè, grazie la Denini, fai isso, capito, grazie la Denini, e grazie a se ti ho sentito, ma in Libia è morto. L'ho sentito ieri nel PMR, l'ho sentito, che stava parlando con Antonello, stava parlando, era giù la saliva vita. Oh, è PMR in treno, va bene allora. Penso di sì. Io in Kiwi già entro, ma entro così, no, tanto di coso. Ah, non si dica di tutto, Ah, no. Stiamo bene qua, io sto bene qua. Sì che si può parlare, il 27 parliamo. Anche quello là c'è cose da parlare, parlo. Sai che... No, la concessione è una cosa giù bagata. Insomma, può capitare qualche volta che va a tacchi. Ma è dritta la cazzo, ragazzi, non cava. Ma poi mi piace più parlare qua in cosa. Il 27 è tutto. Ma il 27 non la sta chiedendo più, Graziano. Solo il PMR, vabbè, vuol dire che... Cazzo, adesso si è lamentato con Luca, dice che non ce lo trova mai nessuno, ma non trova mai nessuno, noi ci siamo quasi tutta la sera, e lui perché non entra il 27, il PMR, ma io non lo tocco più il PMR. Infatti lui è abituato col portatile a coso e non si dà la briga di attaccarsi. Vuol dire che paga che cosa che non hanno. Ma si provi ad attaccare l'apparecchio della 27? Perfettamente, li pensa. Vabbè, deve dare a lui cosa fare, vuol dire che a lui non interessa la 26. Allora si fa PMR e se vuoi fare. Infatti, ma se attaccassero la 27, ti intendi con la 27 qui. Per carità, vabbè. Vediamo un po', ma Chisio, non credo che sia ancora in campagna con quest'acqua, quando mai iniziate veramente a tanti di gira in campagna, no, va bene a vedere, si attraverso dentro la serra, ma non è in docca, Infatti se si dentro la serra non è in docca, no, purtroppo, ma se prendeva così, fu umidità, io so. Vabbè, mi si fa la sentire fra poco, va. Almeno 5 minuti, e ti la campa, e cosa vuoi fare? Per carità. Ah, sa che ho visto ieri, ai piatti alle 6. Ah, Francesco Saccalamento, quello di Signori. Ah, Tizio dice che va tutto, dice, ma senti, non vedi mai nessuno, così che si è tornato a cazzacciare, si deve stare in cazzoli. E te che noi ci fissiamo la sera, cioè, la sera ci siamo, cioè, e dalle 6 in poi, fino alle 8 c'è sempre gente. Dici, ma è attento, ma ci vuole, si non c'è mai nessuno, dice, allora ci tornerò a cazzacciare, cosa l'altro, fa quella roba cazzacciata, dici, non c'è più nessuno, dici. Ma io, dalle 6 in su è sempre acceso, ma si chiama già ciappaglienti, mi devo che attendo a risinco, di che mezzo, certo, dovete acciappare qualcuno. Se chiama già finito di gente. E me la chiama, chiamato Alice, mi ha chiamato. Ma così anch'io chiamo ogni tanto, capito? No. Tu oggi ti ho chiamato che erano le 4:10. Oh, dottore! E sono in luogo, però ti ho chiamato la pericola, si è acceso. L'ho acceso che erano le 6:15, l'ho acceso. Perché stavo facendo fuori con quella tenda e poi ho la giuda fatta e me ne sono entrato da dentro. No, io l'ho acceso presto, però. E allora ho acceso il computer e stavo guardando. E così via, capito? Però se faccio, mi sono stufato e facevano male gli occhi guardando questo computer. E allora ho detto, ma adesso lo spengo, lo spengo. E mi sono fatto mettere di chi da parecchi. No, io mi piace atteso, però ho quel programma da ascolto. Ce ne sono tre o quattro di gozo della 27. Ce l'hanno anche a Napoli quelli. Ce l'hanno anche a Napoli, ce l'ha cosa dalla telecomunicazione pure ce l'ha, questo è lì. L'899. Mentre che è nato il CRC 2000 ce l'hanno dappertutto in Italia, così che quello di Napoli ne vuole 125, ne vuole come si chiama il CRC 2000, ne vuole 125 quello lì. La cosa io non l'ho visto a coso, costa sulle 100 euro. C'era sui altri prezzi, però mi sembra l'unico capito che è di meno che 119, però ci sono le spese del trasporto, gira e gira 125 arriva o cosa l'altro là. Ma è bello quello limito, quello è bello, il 2000 è bello veramente, già è bello quell'altro che sta dicendo l'899, ma il 2000 è bello, Lo so, ma rimane piccolo, è fatto come il coso del PMR, è fatto tutto da fado, da coso. Buonasera, chi è avanti? Ciao Mari! Oi, ciao Lu! Non mi tossi! Ciao Stare, non mi tossi! No, già siamo esitati abbastanza, e a Puglia, caspita! Buonasera anche a lì comunque, Luca! È bello Mario, mi è stato trovato a sentito Luca, sì! Cazzo, è bello Luca, babbo buioso, io che ti sfido, che ti voto! Dugna viso, piace pieno, facciamo ci sono poi le ricattello tutto. Ah, che mi pierete tutto il telefono per pierete. Aspetta, vabbè, cosa ne fa uno unico ma non può le ricattare. Vabbè, che ha detto? Ha parlato il segno Mario. Forse al telefono. anche stamattina mi ha. Oh, stamattina ho telefonato io però, E dopo va telefonato lui e dice adesso ti mando un video, e me l'ha mandato. Niente, io sto guardato e vabbè. E al almeno si svaga, dai, si è lontano. Qua magari trova più gente, là magari sono per il ciuro, solo un parente e basta, capito? Poi lì sicuramente respirerà aria pura, noi come qua, no? E vabbè. Lavora, ho fatto un viaggio, ci lavora, ci guarda che sono lì. Lavoro. Se scatta qua, adesso, la sta per fermo. Sembra così, ma in casa ci vogliono sciogliere. Scatta acqua, è luce, è chiccio, è cazzo, vivo di là, cazzo lo finire, come ti fai? Ah va, non è scinto a farci il tuo travaglio, è giusto che sia, che se lo fosse. E la poi la chitarra, è un travaglio che forse non vogliamo fare, e ci combineremo che vogliamo fare, capito? Perché già là fuori, là, poco a poco, sempre meglio difficoltà che a mezzo. Sì, infatti dobbiamo fare anche un lavoro assieme quando rientra, un lavoro che l'ho chiamato, urgente. Oh, molto lungo? No, non è molto lungo, sarà brutta, fai 3-4 giorni. Vabbè. Noi questo che abbiamo forse è molto di più, adesso da vedere quando rientra, vediamo un po' cosa combinare. Quando c'è bisogna prenderlo, anche se poco, bisogna pigliarlo, cosa vi va? Lo puoi stare così in girondolenti o ti manda a rubare? No, va bene, no, come ti fai? Senza dai, stai male. Ma guarda, io ho già per il computer, la posso fare su, quando ho trovato la linea di hotel, il PC, qualcuno ha fatto guadagno, ma non so se ne può capitare, perché la linea sono qualcosa, con le mani in mano glielo ho visto, forse poco. Ma è meglio che sì, meglio di contare che abbia da lui, e infatti anche tu andate da fare allora, almeno sai qualche cosetta e sei tranquillo, capito? Dore! Giomari, sono un attimo al telefono, entro subito. D'accordo, so. Bravo, immaginate che era il telefono. Così è lui, per carità. Ora fammi che sei in giro, Per fatto, se non mi sto con le mani in mano, da tempo stesso devo fare qualcosa. Per fatto. Poi a Luca se qualcosa da che chiama, a darmi la mano, poi non c'è il mezzo, dai. Andiamo, passiamo. Certo. Se c'è registrato un'altra persona, io ti chiama qui. Lo credo bene. E vediamo là, vediamo un po' com'è la situazione. Stiamo facendo i conti noi pure, capito? Io non mi dico di dare il mio marito. Guarda a ciocca, faccio chiama, ho chiesto a un padre di questo mio amico, no? Di fare i conti, ho detto, non sono problemi, mi devo andare il cibo, non provo, andiamo, perché è un po' più umano. Quindi e poi magari un po', ma la mangio. E la dama l'ha preso, quella che è non, cioè, non è mai avuto mai niente. Uno ci deve dare da fare, non può stare così sempre a zonzo da parte all'altra. E queste sono cose che non puoi fare benissimo, sia per casa sia anche per te. Da ciò che erano quelli, anche io lo andavo sempre. Adesso magari no, non ci vado perché ho aspettato, magari tipo a Cattiglia, già che si gaggiava a torra, se mi cava dentro tanti che si fratture già due, come fai? Se no ci andavo molto spesso a ciocca miunga, anche a funghi andavo, per dirti no. Uno bisogna andarsi da fare, per cui è anche meglio anche per lui, dai. Ah, vabbè, non conviene, questo è il colore. No, questo che sto andando io già 76 anni, ma tu devi dire, ma non è più come prima, appunto, l'ha fatto. Bisogna stare attento perché io ho avuto quello che ho avuto, lo sai, e per cui devo stare attento camminando, ecco tutto lì. Magari se uno è sano, si va tranquillo, e prima andavo, andavo pure a sola, di noi che andavo, andavo in compagnia, ma andavo anche da solo, certe volte lavorando la sera. La sera come uscivo dal lavoro, quando pioveva, pigliavo e partia e mancava sempre la gioca, aspetta, poi ci faccio un poco di gioco a casa. Un anno, ma un mezz'anno fa, c'era a Picca, a Corso, a Battistentino, di Balmato era. Allora, dopo il Balmato, la trocca di Corso, la montagna, dopo il paraggio sulla bara, a Occiammare, no? Era un tirare perché dire, però era, si è pisato il mare, per cui non avevo fatto niente, però si è pisato sotto una rocca che vera, io avevo fatto il fuoco. E si sono dormiti, buono mangiato, li bisemo, sta facendo, avevo visto sta barare, di cosa, tu piacque, ma sarà gioca che vera, ma io non ci visto mai gioca così. Non ha visto mai, di lunga ma era piena. Cazzo si la tira di scegliere, cazzo ci devo firmare i capelli, cazzo, si può immaginare, è la maglietta. E se mi sta tu quasi macchina, cazzo, sempre bagno di gioca, cazzo, ma la gioca è vera. Da voi è passata la morte e l'ha distrutta tutta ivi, ma vera è passatura ivi la gioca, però. Sono mezz'anni, dai, no come stava a farlo, finché giocano. A che tutti si accadono, a chiamare da tutti. No, ma non è più come prima. Io per il conto, facendo qua, quasi 20 anni, quasi 20 anni fa, qui la gioca, ma parlo per tutti. Sì, trovo il tanto tutto per mangiare. Prima si è tenuto. La gente, tutte molte persone qua, tanto non fanno la vostra cosa, bisogna andare, quando può andare, bisogna andare e paccaggia è tutto buono, e poi se vede di più, si può venire pure a chi no, io non ho visto su me, ma se certo, la volta è stato un mese mangiando fuori di gioco a casa, adesso sta giocando la chissuco, cazzo, ma un bene. Però a voi la distrutta, pure la creare la distrutta, che pure la si muda, pigliava le gatti, non si può immaginare, stare con questo gatto, a chi, gli amici, tutti i gatti, no, hanno passato la posa e allora andavano tutta a chi, sì, era mai sentita, fino a poco gioca a chi, ecco questo, non si dà. Eppure, io che la batte di carica, mola qua in questa zona, non batteva un malessere. Andavo dappertutto, ecco, pure a Ciocandino, sono andato, puoi immaginare. Io mi ricordo qualche anno fa, pochi anni fa, sono andato lì, da solo, è morto. Tre volte ho fatto, quasi... Ha giubilato per la giudicazione, quanta mi ha lasciato di tutto. È vero, beh così, ma bisogna andare, pure a te, a queste voci, a Finuccio, e uia, certo, a Finuccio va giù, dottora, ma no, avere la campagna, avere una campagna che non la bullini mai, certo. È abbandonata, però che buono Finuccio, che sta in fascia dura, indica. E non hanno noi, abbiamo, o alla sera, o con l'edo, come vogliere, se ne fanno le bucce, le piene, da poi tagliamo a pezzi e se ne poniamo in frisa, capito? Oppure se ne mangiamo con l'uovo. Tanto fatti i miracoli, si buono un po' di velocetti in mezzo, non c'è che è buono. E qui ne avevamo un bel ancora in frisa, si può immaginare, per dirti, no? Sì, certo, come si fanno quello che facciamo, io guardo da poco lo stesso, ma l'ho fatto un po', devo tagliare, era un po' lo stesso. Vabbè, dai, io mi aspetto 10 minuti, non ancora faccio una bella vita, anche il freddino qua, oggi c'è una fredda. Ci sentiamo dopo, dai. D'accordo, ci sentiamo dopo, è acceso qua, dai, vediamo un po'. avanti chi ha bussato, donna gana chi c'è. Sore! Allo? Ma Mary! Io sto uscendo a prendere la signora, ero parlando con Marchigi al telefono. Stavo parlando. E mi ha già messo la signora. Ci sentiamo dopo. D'accordo, te, fai pure tranquillo. No, mi sono svegliato alle 7, sono andato lì, ma c'era un freddo, mamma mia. Beh, faccio bene, mi stai in caldo, tanto la giornata è un po' umida, questa cosa fa in terra? Io dopo pranzo mi curico, un'oretta, certo. Però mi riposo, ormai sono abituato così tutti i giorni, salvo magari non c'è gente. Però mi riposo sempre io, tutte le sere dopo pranzo. Fai bene, non facciamo c'è la freddo davvero, cioè, alza un po' l'umido che c'è fuori, c'è la nebbia adesso. L'umidità allora, l'umidità fa più male che quando c'è freddo, certo, l'umidità fa male, ma... ok. Sì, io stavo guardando adesso, mi ha mandato un video Luca. E prendi lo spavaldo e prendi i continenti. Sicuro. Ma quello che c'ha più freddo Luca e noi, a tutti i dinni. Ancora fino a che fa un bel ancora dito grande. Meglio così, se c'è da lavorare che ne ha parecchio per 6-7 mesi già va bene. Il brutto se non ci prendete da fare, o che non lo paghi, ma purtroppo già l'ho visto come sopra, ci sono le cooperative, subappalti, quindi è un casino. Si è sempre la fregatura. Certo, quando sono questi soprapparti così, per carità, cazzo da fuori, cazzo non si baga, ma a che punto mi arrivi, cazzo? Ma puoi fare, dice, apri dai, di là, cazzo, ti buco a capi terra, il mongo. Cazzo, cos'è questa cosa? Chi mangia solo tu, me o pure devo mangiarmi? Ma ce ne sono parecchie così, si sfrutta uno e all'altro, cazzo, e si fece mangiare a quattro galassi, capito? E noi moriamo di fame. E appunto per quello, è un bel casino diventato, un bel casino. Per carità, a che punto siamo arrivati, cazzo. Beh, grazie, lo hai sentito? No, sto per entrando, figurati tu. Non lo sento per niente. Oggi, perlomeno. Magari stava facendo roba. Cazzo, il rattargo mi sei andato in sciubura. Carità, vai. Siamo andato bene. Vabbè. Ognuno fa un po' fare quello che crede. E la ragione, prega per la salute, là. Ah beh, quello sì, quello già è vero, preghiamo la salute, e stiamo come stiamo bene, per il momento ancora. Poc'anzi c'era uno che stava fischiando ogni tanto, rispondevo, non mi rispondeva, non mi diceva niente, allora mi ha mandato a quel paese. Fatto bene. Vittorio è andato a prendere la moglie, la mamma era entrata a Bacchino, Bacchi si è pigliato un bel freddo oggi, beveva,

qualcosa che entrava dopo pranzo, perché non c'era 27 più che altro, quindi dopodiché ogni tanto qualcuno già entra. No, adesso l'ha scatto, adesso l'ha toccato più, no? Non mi deve la mascola galassia, perché c'è pure la macchina di carico, ma prima sono caricato là, e poi se l'ha scatto, è brutto, non mi ha acceso più, e forse non accenderò più, e c'è, tra l'altro, ho messo una macchina, ah, si vive più poco, per cui, mi basta la 27, va, ah, va bene, quando c'è, ci sono, fiaccono, quando c'è nessuno, pazienza, cosa vuoi fare? Lui ha, perché c'è, gli altri abbiamo altre cose più importanti, va. Sì, c'è Graziano che entra in cose più PMR, c'è Graziano, c'è... c'è gente, non è che non ce ne sia. Basta usarlo, il PMR ogni tanto. Io ho sempre acceso, ma se esco me lo porto sempre appresso. Ma lo faccio anche te lattina. Capito? È più malleabile da usare, capito? Dopo ti passeggio e parli con chi vuoi. No. Sa cos'è? Che magari c'è quello che lo sente, c'è quell'altro che non lo sente, cos'è l'altro per cui non vale la pena, ecco, perché non lo sento più per quel motivo. No? Si passa almeno la 27, se l'altro ci sentiamo e anche oltre, per cui va benissimo la 27, guarda, si sente il fiacco, quando lo fa niente. E c'è bel raccio a chi vuole chiacchierare lì. Beh, io già lo uso sempre. Ma lo porto anche a passeggio, non so l'altro, quindi. Io quando vado nei posti qualche volta, prendo l'accendo, e qualcuno mi piace sempre. Già mi risponde. Non è che non ci sia nessuno. Ehi, hai due, devo morendo appresso in busacca. No, saranno. Già passava sul telefonino, pure hai due voi in mano. Vabbè, tu magari te lo metti in tasca. Giuseppe gli ha risposto, è da fare che lo sento. Giuseppe gli ha risposto sempre quando ti chiama. Perché va bene così, vai, sta benissimo. Ok, vediamo un po' se è rientrato Tore. Tore, Marco Bacchisi oggi. Oggi Bacchisi senz'altro ha preso un'età e non ha acceso l'apparecchio. È tutto freddo ritto, Tore ad aspigliare la moglie. Ma Tore gli rientra tra poco, va. Sì, Bacchisi sarà in campagna senz'altro a controllare la campagna, non sentite qualche ladro. Ma chi se fa le serre, per cui se ne va dentro le serre non ci piove lì, no? Lui ci lavora dentro le serre, capito? Vediamo che lo lavora. Almeno si fa la spesa ogni giorno, a posto di andare al supermercato vale nel serre, a prendere i pomodori, tutto quello che pianta. Lui lo fa per lavoro, capito? Per cui un lavoro, qualche cosa c'è, perché la pensione non basta mai, allora bisogna anche cercare di racciumulare qualche cosa, almeno da campagna. Quello sì, basta non rovinarsi la macchina, come facciamo per padre, e con l'otto già faceva i soldi, ma se ha rovinato la macchina in tempo di 6 mesi, la potrei mettere la roba bagnata dentro. Oh, certo. E il babbo ha rovinato due macchine, il 127 era l'ultimo, figurati tu. L'Apollo non ha fatto una cosa del genere, perché ormai la campagna 8 non ce n'era più. La 127 era l'ultimo. Il cofano ha fatto marcire, forse mettere roba bagnata, la verdura, capito? Pigliava, caricava lì, poi andava nei negozi a vendere un paio di frutta e verdure, capito?

fa sempre piacere, ok? Riprendi per i saluti e ascolta e chiudo. Ok, Giomaria. Ciao, Bacchisio. Ben sentito. Ciao, Giomaria. Ci sentiamo domani se coincide. Ok, ciao a tutti e due. Ok, ok.